Allora, buonasera, siamo ancora noi poeti disgustisti, speriamo che vi disgustiamo abbastanza, fatecelo sapere, insomma, chiamateci anche in diretta, insultateci pure, non ci sono problemi, noi vi rispondiamo per le rime. Però Siamo scusa, poeti poeti disgustisti e disgustosi e neubiti anche. Volevamo presentarvi adesso l'unico poeta serio, vero, un grande poeta, Rettumo, il e più prima, grande più grande, prima di farlo recitare perché sono vorremmo più fare un bello. saluto a un nostro poeta, Ermete, che purtroppo non è più fra noi, è passato a miglior vita, poeta Sicuramente ci estinto. starà guardando da Sì, lassù. da qualche parte ci starà ascoltando e guardando. Manderà Beh, qualche ma anche messaggio. il fratello Sandro Petrò. Il fratello Sandro Petrò, insomma una strage. Cioè, siamo stati. Signori e signore, a voi Rettumo. Buonasera. Volevo iniziare con la prima poesia, una poesia autobiografica, intitolata Monoscopica e microscopica della vita. Appena nato non avevo nessuna età. Dopo 2 anni ne avevo due. Aspettai un lustro e arrivai ai sette, un'importante età, i sette. Mi ricordo il mio primo ghiacciolo ed il mio primo bidet incontrollato. Dopo 7 anni arrivai ai 15. Fu l'era della mia prima candela sostituita al mio lemme e del mio primo bagno senza ciambella. Dopo 10 anni arrivai ai 25. Anni oscuri che determinarono tutto l'andamento di quell'età, cioè cambiarono l'itinerario del 907, prolungandolo fino alla storta. Oggi ne ho 39 e sono molto contento. Ci sono parole, Ammappalo. poeta, Sei un po' eta. Un poeta e un signore. Posso dirne un'altra appunto Quante ne per vuoi? tranquillizzare Poeta è un tutte po' le anime. beta. La morte è vita. Quando muoio sto tanto male e per non soffrire penso a che c'è di buono nella morte. Rifletto, in effetti mi viene in mente che morire sia una missione umanitaria. Renderò fertili quei 2 metri di terra che avrò su di me e poi anch'io contribuirò a far sì che il bigattino di prima porta non si estingua. Vedrò il sorriso felice del figlio 14enne del becchino che con i soldi del mio funerale potrà ricevere il motorino nuovo. Finalmente non vedrò più le persone che ho sempre odiato. Potrò dormire quanto voglio senza svegliarmi mai più presto la mattina. Non pagherò più luce, gas e telefono e avrò una convenzione con la CEA per la luce perpetua. Non mi farò più la barba e potrò portare a lungo il mio vestito preferito. Non ingrasserò più, anzi, farò ingrassare. Non mi verrà più la febbre, il raffreddore e il mal di testa, non assumerò più medicinali. Starò al fresco sempre, facendo in barba i reumatismi, e il mio cuore non batterà più per nessuna donna. Quindi, dopo aver analizzato solo una piccola parte del positivo della morte, sono convinto che oltre all'incontro inevitabile con essa, c'è una grossa convenienza nel vivere felicemente la morte. Grazie. Bravo, poeta nobile. Poesia, anche Mister Prozac vuole cimentarsi. Tutte le piante danno in primavera i loro odori. Quelle dei piedi tuoi sono profumate, oltre che in primavera, financo l'estate. Fosoloschi, sanno che sono il più bravo e il più bello, quindi mi apprezzano. Volevo salutare Ermete che ci ha mandato un messaggio dall'aldilà, lo risalutiamo. Questa poesia si intitola Non sopporto. Non sopporto i vecchi che sputano per terra, non sopporto serbi e croati che fanno la guerra, non sopporto chi va nudo in metropolitana, non sopporto la buccia della melanzana, non sopporto chi ha il cervello nel culo. Non sopporto il contadino che si tromba il mulo. Non sopporto Giuca Scassella e Bisteccone. Non sopporto Biscardi e il moviolone. Non sopporto chi si brucia come i bonzi. Non sopporto i leghisti perché sono tutti stronzi. Non sopporto Mario Merola e la sceneggiata. Non sopporto chi non mangia marmellata. Non sopporto la coda all'ufficio postale. Non sopporto il pesce andato a male. Insomma, non sopporto. So stazione. Grazie, dopo questa cazzata. Messaggio in codice per me. Cerca da risorgere prima del 19 che domanda a Vienna. Bene, dopo questa prima poesia ve ne beccate un'altra che si intitola Conoscersi e fa così. Voi siete quelli che strizzate il tubetto del dentifricio fino a quando non esce più nulla. Voi siete quelli che vi soffiate il naso e poi guardate dentro il fazzoletto. Voi siete quelli che andate al mare del lunedì per rimorchiare le parrucchiere. Voi siete quelli che fate le puzze dentro al letto e poi mettete la testa sotto. Sì. Voi siete molto simili a me, sì. Solo che io sono più bello. Grazie, vi amo tutti. Vi amo soprattutto le donne. Sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. 15 luglio, ti ricordo che la poesia è Natale. Allora, eccoci qua di nuovo, vorremmo salutarvi, sì, è vero, hai ragione, fratello. È vero, fratello. E diciamo velocemente un'ultima poesia per uno. Sì, è dal momento che fuori fa 40 gradi, è vero, è 15 luglio, noi diciamo ognuno una poesia dedicata a Natale. Io no. Allora, tranne la gentile signorina qui accanto. Visto che è il 15 luglio, noi recitiamo una poesia che è dedicata a Natale. Allora, il signor Natale. Vabbè, io so sempre quello di prima. Nato a luci. Natale con internet. Io ho detto nato a luci, nessuno ha applaudito. Ah, grazie. Abbiamo fatto proprio, non è una cosa messa. È una cosa spontanea. Alza il cartello, applausi. Non conto niente, vabbè. Allora, no, ma non recito più. No, vabbè, recito. Meno male che era veloce questo. Allora, la notte di Natale accendo il mio computer, mi collego su internet e faccio sesso virtuale. Con la telecamerina, no? Quella roba lì. La notte di Natale mi collego su internet, faccio sesso virtuale e accendo il mio computer. La notte di Natale faccio sesso virtuale, accendo il mio computer e mi collego su internet. La notte di Natale accendo il sesso virtuale, mi collego sul computer e faccio l'internet. La notte sesso virtuale, accendo l'internet, mi collego sul Natale e faccio il mio computer. La notte del computer, accendo il sesso Natale, mi collego sul virtuale e faccio il mio internet. La notte del sesso faccio il Natale virtuale, mi collego sul computer e accendo internet. Vabbè, l'ultima, dai. Dai, Gesù. Del faccio virtuale Natale sul computer, internet, accendo sesso, la notte collego di. Del culo. Bravo, bravo. Grazie. Una goduria. Grazie. Vai, adesso il poeta nobile, Rettumo. Mettete. Scusate, c'ho la caramella. C'ho le cozze in bocca. Ha una cozza in bocca lui, di solito. Allora. Bravo. Bravo, dai. Bravo, Babbo Natale. Se oggi credessi a Babbo Natale, sarei più felice. Felice come quando avevo le ginocchia ferite, felice come quando riuscivo a fare 2 più 2. Felice come quando chiamavo mia madre e mi facevo tirare per merenda pane e sugo dalla finestra. Felice come quando il flipper costava 50 lire una partita con 5 palle e si vinceva 1000 punti. Felice come quando riuscivo con la fionda a tagliare di netto la testa delle lucertole. Felice come quando mettevo il completino attillato privo di lampo color verde bosco e giravo con la bici gialla Bocross. Felice come quando leggevo promosso. Felice come quando prendevo 5,5 nel compito in classe d'italiano. Felice come quando uscivo la mattina fresca d'estate alle 9:30 tutti giù e giocavo fino a 3 partite al giorno. Felice come quando facevo a lotta con Fernanda nella cantina della tintoria della madre di Riccardo. Felice come quando sentivo i dischi di John Holiday e C.B. Vartan. Felice come quando piangevo mentre guardavo Love Story. Felice come quando ballavo Gimison. Felice come quando chiedevo 100 lire a Virgilio. Felice come quando alle 3 del pomeriggio d'agosto compravo il cono da 50 creme e limone da Guido. Felice come quando arrivava Dick, il cane di Ciccio e Cocomeraro, e saltavo sulle macchine parcheggiate. Felice come quando il bagno facevo il bagno il sabato sera e lasciavo l'acqua nera nella vasca. Felice come quando mi addormentavo felice. Felice come quando a Natale io credevo a Babbo Natale. Bravo, grande poeta. Bravo. Esatto, ed ora finalmente una voce deliziosa. Esatto. Quella gran patatona di Ami Cristi per voi. Ma io avrei voluto mandare un estratto dal mio CD, ma come sono sotto, l'estratto del brodo non lo mando, per cui farò a voce. Tutto orale qui. Buonasera, permettete che mi presenti, mi chiamo Deborah Proietti. Scusate l'emozione e la fretta, ma ho un matrimonio che m'aspetta. Io sarò una sposa perfetta, mi sposerò in una bella chiesetta, inviterò amici e parenti, mostrerò loro la collanina d'oro, il vestito bianco e mio marito, che si chiama Franco. Lui m'ha preso a bastonate, m'ha frustato con la fibbia della cinta e il giorno stesso m'ha messa incinta. Io però sono contenta, perché siccome che non sono tanto bella, sempre meglio che zitella. Ho raggiunto anch'io il mio sogno ed un uomo poi lo voglio. Firmerò cambiale su cambiale, ma sarà un giorno eccezionale. Me l'ha detto la maga alla TV e gli ho pagato un filtro d'amore voodoo. Gli ho pagato anche il talismano che lo tengo sempre in mano. Sono passati 10 anni. Permettete che mi lagni. Ricordate la sposa modello? Beh, al mattino bevo vino novello. Soffro d'ansia e depressione, psicofarmaco e mi calmo. Il cervello m'arrovello, la famiglia è il mio fardello. Ora abbiamo 3 mocciosi, brutti, asini e catarrosi. Mio marito ha la nevrosi, rompe tutto, ha la cirrosi. Non abbiamo riscaldamento e dormiamo sul pavimento. Ma non mi lamento ringraziando Dio, perché so che diventerò ricca, visto che stasera ho schiacciato la cacca. Brava, brava, brava, brava, Donatella, brava. Ed ora il più grande. Continuiamo con l'angolo. Scusa, vuol dire che lei è l'unica che recita a memoria. Esatto. È vero. Quindi, dopo la nostra parte femminile, continuiamo. Brava, brava, bene, bravina. Ed ora, Foso, Foso. No, io non urlo perché prima non avevo. Dopo la parte femminile. Brava! Grazie, grazie. Torniamo agli uomini. Dai, questa torniamo a Natale. Anzi, un messaggio prima di dire questa cosa ai bambini. Volevo dire che Babbo Natale non esiste ed è pure frocio. Allora, regalami un orologio senza ingranaggi, per non dover mai guardare l'ora. Regalami una penna senza inchiostro, per non dover mai riscriverti. Regalami un libro senza pagine, per non leggere mai senza di te. Regalami degli occhiali senza lenti, per non vedere null'altro che te. Regalami un telefono senza cornetta, per non dover mai risponderti. Regalami un sorriso, drupi. Regalami una padella senza manico, tanto di manico c'hai già questo. Regalami un acquario senza pesci, tanto come sopra. Regalami una sega, oppure tiramela. Regalamela. Una bomba a mano, io vorrei regalarti. Senza spoletta, cara, non preoccuparti. Grazie. Bravo. Andiamo. Anche se preferivamo la patatona, comunque. Era un po', bisognerebbe discutere. Ed ora finisco io. Elvo Mito. Con una poesia, guardate caso, sul Natale. E la dedico al mio amico e compagno di scorribande Ermete, che facciamo tutti i Natali insieme, e questo Natale purtroppo. Pace all'anima sua. Non ci sa. Spero che ci guarderà da dove. Mandaci un messaggio, dacci un segno. Sappiamo che sei lassù e ci guardi. Basta, e ci proteggi. Proteggici. Va bene, questa si intitola Natale. Buon Natale, luridi porci! Buon Natale, spero che vi divorino i sorci. Vorrei vedervi fare la fine del panettone tagliato, mozzicato, masticato, vomitato. Buon Natale, siete tutti più buoni. Buon Natale, grazie dei doni. Però ve prego, levatevi dai coglioni. E per... Grazie. Parole sante. Grazie. E per finire l'hit single dell'estate, Magna Roma dei Sentinels. Addio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. E namo dai, oste, portaci un litro di quello buono e un mazzo di carte. 87.9 in FM. Termina alle 19.40 sfasciate. L'angolo della cultura di Prozac, la cultura con la Q maiuscola. Ultimo ringraziamento infine va fatto al nostro nuovo sponsor. Acqua olico minerale, villaggio globale e non sai che ti bevi. E namo dai, oste, portaci un litro di quello buono e un mazzo di carte. Yeah.